Alessandro Milan, bellezza. E tu non puoi farci niente, niente. Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 9:07 e ci siamo per una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan. Siamo a raccontare tante tematiche, non solo, ma certamente anche la vicenda del coronavirus. Parleremo anche di questo, anche perché, attenzione, insieme a Miriam Lucchetti, a Lorenzo Nespoli, a Elisabetta Fusconi, all'Alpino in regia, oggi è già qui, l'ho visto, è già arrivato, è arrivato più imprevedibile, imprevisto di un virus, è arrivato Leonardo Lentopede, oggi neanche Lentopede, Manera, Leonardo Manera, ciao. Oggi la metropolitana, vedi, era vuota, aprivano e chiudevano le porte. Ah, è venuto in macchina. Ecco, figurarsi se si mette in metropolitana. Lui in macchina. Vabbè, Leonardo, dai, quando hai bevuto il caffè, entra in onda. Facci questo regalo oggi, vai. Enthusiasm about the future. E ragazzi, entusiasmo. Io adesso, guardate, poi devo dire delle cose scomode, perché sapete che sarà il fatto che sono rinchiuso in casa anch'io varie ore del giorno insieme a due figli che non vanno a scuola, attaccati uno alla PlayStation, l'altro al cellulare, eccetera. Vabbè, sta di fatto che sono un po' nervoso, però allora adesso lo devo dire. Io devo dire che nelle ultime 48-72 ore c'è stato un vero impazzimento generale. Però, avete notato il cambiamento dei toni da parte delle istituzioni, del Premier Conte, del Presidente della Regione Lombardia da ieri? Cioè, si sono resi conto che prima hanno scatenato le nevrosi delle persone e poi adesso ci dicono che è un raffreddorino. Cioè, ma sono stati loro, cioè con una comunicazione pervasiva e sbagliata, lo dico, a far vedere che c'era una situazione di terrore. Perché se no, perché il Presidente del Consiglio la domenica deve passarla facendo il giro delle trasmissioni televisive collegato dalla Protezione Civile vestito col maglioncino per dare una situazione di emergenza andando fin da Barbara D'Urso in TV? E poi ci si stupisce se la gente corre nei supermercati. Vi sembra una situazione di comunicazione normale nella quale c'è il capo del governo che va in tutte le trasmissioni, anche, ripeto, da Barbara D'Urso, con rispetto di Barbara D'Urso, ovunque, a dire siamo qui dalla Protezione Civile, e la gente cosa deve interpretare? Presidente della Regione Lombardia, ricordiamo, in una infelice dichiarazione, a mio modo di vedere, ha accostato Milano a Wuhan. La gente poi cosa deve pensare? Si sono resi conto e adesso dicono che è un raffreddorino. Sentite la dichiarazione di ieri di Conte sui tamponi, sentite. La prova tampone è una prova che va fatta solo in alcuni circostanziati casi. Ma come? La prova tampone non va fatta diffusamente. Non è che uno oggi, qualcuno avverte, non so, qualche, di avere un'influenza, una febbre anche alta e fa la prova tampone. Quindi il fatto, probabilmente in questi giorni, di aver esagerato con la prova tampone è un fatto, voglio dire, che non risponde alle prescrizioni della comunità scientifica. Ho capito. E chi è che ha esagerato con la prova tampone? Io non ho a casa tamponi, andare in giro con i miei figli, fate i tamponi. Dichiarazione di ieri, cioè praticamente Conte ha detto abbiamo esagerato con i tamponi, ieri. Domenica da Lucia Annunziata abbiamo già fatto 4.000 controlli col tampone, siamo il primo paese in Europa che ha deciso controlli rigorosi e accurati e sin dall'inizio abbiamo optato per la linea di massima precauzione e rigore. Cioè sempre Conte l'ha detto, Cioè Conte domenica ha detto siamo i rigorosi col tampone, adesso Conte dice due giorni dopo abbiamo esagerato col non si esageri col tampone, ma lo dice a se stesso, dovrebbe dirlo, no, no a noi, noi non sappiamo niente di tamponi. Oggi Mattia Feltri è perfetto sulla stampa. Sì, è pandemia. Ho visto un titolo, torna mani pulite, ma parlava della mucchina. Ecco, il sospetto covava in me da giorni, mentre amici mi scrivevano su WhatsApp novità sul coronavirus, come se custodissi segreti più indicibili. E poi le pagine a dozzine, le dirette infinite febbrili, i siti, gli inviati con la mascherina, i copriscarpe monouso, la foto del ratto dei supermercati, i social, l'autista del bus che tira dritto perché alla fermata c'è un asiatico, la squadra ungherese di volley indisposta a incontrare quella di Schio, la nemesi grottesca dei confini della Romania chiusi agli italiani, i turisti milanesi ricacciati dalle Mauritius, la chiusura di aziende, università, bar, fiere, stadi. Non si è ancora capito se il coronavirus sia una pandemia, sicuramente una pandemia. È la paura del coronavirus. Infatti ieri il premier Conte è passato da siamo pronti a misure straordinarie a no a scenari drammatici. E l'Italia è sicura. E il presidente Lombardo Fontana è passato da faremo come a Wuhan a è poco più di una normale influenza. E insomma, guarda un po', dopo giorni a contendersi la prima linea davanti all'allarme del virus, si sono accorti che il virus fa meno danni dell'allarme. Tra l'altro, a proposito della mascherina, ah sì, c'è Fontana. Stiamo cercando tutti quanti di far capire che sì, questa è una situazione sicuramente difficile, ma non così tanto pericolosa. Il virus è molto aggressivo nella diffusione, sì, ma poi nelle conseguenze molto meno. Fortunatamente è poco più di una normale influenza. Cioè abbiamo chiuso i teatri, tutto bloccato, l'economia per una poco più di influenza. Ragazzi, mettetevi d'accordo, i tamponi o vanno fatti o non vanno fatti, o facciamo come a Wuhan o è poco più di influenza. Certo, un consulente sulla comunicazione che costa poco, guarda, glielo fornisco io a 10.000 euro l'anno magari, e si evitava tutto questo bailam. A proposito di una cosa, le mascherine, devo dire una cosa, le mascherine, guardate, oggi anche la virologa del Sacco, Gismondo, intervistata a Repubblica, alla domanda servono le mascherine, domanda, risposta, no. O meglio, servono a chi sta in ospedale, servono a chi è malato per non infettare gli altri, servono a chi è nella zona rossa, certamente. Non servono se andate in metropolitana perché carnevale è finito. Carnevale è finito. Io inizio a strapparvele dalla faccia quelle mascherine. Se vi vedo in giro per Milano con le maschere, ve le strappo dalla faccia. Peggio ancora quelli che si mettono gli sciarponi a coprire il naso. Ti strappo la sciarpa. Magari hai pure mangiato la cipolla, hai l'alito che puzza da far schifo e te lo senti tutto il tempo. Quindi tiratevi giù la sciarpa, tiratevi via le mascherine se non siete medici, personale ospedaliero, infermieri, se non siete malati, perché carnevale è finito. Finito, se no vi meritate la mascherina di Fendi da 190 euro. Ve la meritate, va bene? Mi sono sfogato. Alle 9:15 minuti però c'è stato anche un grave scontro istituzionale, inutile negarlo. La stampa racconta di un Fontana che ha dato del cialtrone al presidente del Consiglio con la presenza via web, tutti collegati, di tutti i governatori, il premier e anche il presidente della Repubblica Mattarella. Io non lo so se sia andata così, ma la vicenda è legata a un ospedale, l'ospedale dove è nato tutto. Io ringrazio l'operatore sanitario dell'ospedale di Codogno, Luca, nome di fantasia, che torna con noi. Buongiorno, lo abbiamo avuto fin dal primo giorno perché ci ha scritto e lo ringrazio. Luca, intanto grazie per tutto quello che state facendo. Perché buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Perché siete lì, insomma, so che adesso non è in turno, ma dovrà iniziare, farà la notte. vi ha dato un po' fastidio essere additati in qualche modo a personale che non avete un po' seguito le regole? Ma sicuramente non è piacevole, però diciamo, io direi di rinviare le polemiche a dopo, sì, se si può, perché comunque in questo momento credo che tutti dobbiamo cercare di contribuire a, in qualche modo, a risolvere questo problema. Mm. Ripeto, penso che quello che il governo sta facendo sia giusto, al di là delle polemiche locali, diciamo. È giusto, e che comunque, diciamo, bisognerebbe far parlare esperti del settore, virologi, quale il professor Burioni, che dico anche comunque questa potenzialmente è una pandemia. Ma certo. Ora, questa schizofrenia che nella comunicazione effettivamente non fa altro che aumentare, diciamo, confusione. E certo, perché nel giro di 48 ore ci hanno detto prima che era come potevamo diventare come a Wuhan, adesso che è poco più di una. Allora si mettessero d'accordo, insomma. Esatto. La situazione qui è un po', diciamo, un po' surreale, perché, vabbè, per quello che si è visto, le scene da film. Però, diciamo, nell'ospedale gli operatori e tutto il personale sta facendo davvero delle cose incredibili. Ci sono persone che sono lì da giorni, non sono tornate a casa, che vivono ormai lì, diciamo, nell'ospedale. Riconosciamo che l'epicentro è stato qui, però assolutamente non era qualcosa che era prevedibile, perché era lo scenario peggiore che si potesse verificare per l'infezione. Certo. E sì, purtroppo si è verificato. Quindi, sì, al di là di queste polemiche, adesso dobbiamo cercare di contribuire a risolvere i problemi, tipo dispositivi medici, come diceva prima, mascherine sì, mascherine no. Ci sono le mascherine, ci sono per esempio queste mascherine? Sono centellinate, guardi. Ecco, e a voi, lo dico agli ascoltatori, a loro servono, per loro sono fondamentali, certo. Non per andare in metropolitana, ma per stare nell'ospedale di Codogno, per esempio, lì sì, certo, sono fondamentali. Poi ci vorrebbe un po' di comunicazione più, come dire, costante e chiara con la popolazione, per rassicurare la gente. Per dire, io per esempio vedo queste file assurde ai supermercati, quando è stato detto che era garantita l'assistenza, diciamo, il rifornimento alimentare, la gente che non sa se c'è o non c'è. Ci sono state c'è un po' di confusione dal punto di vista di questa comunicazione. Io parlo per la zona rossa, qui che siamo segregati in questa zona qui, ecco. E quindi, al di là di questo, il mio invito è un appello a che tutti, diciamo, possano contribuire a risolvere adesso in questo momento problemi e evitare le polemiche. Sì. Poi magari le polemiche benvengano dopo, va bene, d'accordo, poi vediamo se il caso era un caso, diciamo, che è stato trattato bene, certo, oppure, è stato trattato oppure bene. No, io credo che l'ospedale ha fatto la sua parte, come sempre. No, gli operatori sono stati davvero incredibili. Sì, e ricordiamo che alcuni di loro sono contagiati. No, ma Luca, noi certo. Grazie, certo. Insomma, grazie, certo. Ma soprattutto per, ripeto, per tutto quello che fanno gli operatori sanitari, i medici, infermieri, tutto il personale che sta negli ospedali, che stanno negli ospedali giorno, notte, a volte senza anche ricambi, perché in questa situazione di quarantena, paradossalmente, chi era lì nel momento in cui è scoppiato tutto il bubone deve rimanere lì e si fatica anche a trovare ricambi. Allora, tutti coloro che criticano me, io non faccio altro che registrare quello che è successo. Cioè, ve ne siete accorti anche voi che 48 ore fa si parlava in termini di bisogna fare i tamponi a tutti? E 48 ore dopo i tamponi sono stati esagerati come numero. 48 ore fa si parlava faremo come a Wuhan se dovesse servire, e adesso è poco più di una febbriciattola. Cioè, se voi criticate me, insomma, è come la storia del puntare il dito alla luna, no? Criticate chi ha fatto queste dichiarazioni, che sicuramente ha dato due nel giro di 48 ore, hanno dato delle comunicazioni che sono l'una il contrario dell'altra. Questo è un dato di fatto. Ieri, Conte ha invitato la RAI come servizio pubblico a tenere i toni più bassi. Sì, ho capito, ed è giusto, ed è assolutamente giusto, l'informazione deve tenere i toni bassi. Beh, anche le istituzioni devono tenere i toni bassi, nel senso che non credo che tutte le trasmissioni di domenica abbiano mandato il Presidente del Consiglio in diretta dalla Protezione Civile vestito col maglioncino, lo ripeto, è importante per dare il messaggio di siamo in una situazione di lavoro costante, di difficoltà, non credo che l'abbiano fatto senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio stesso, no? Comunque 9:22, io sono collegato con Daniele Novara, pedagogista, che voglio salutare. Buongiorno. Buongiorno Alessandro, eccomi. Eccolo qua, è collegato con la nostra app, è presidente del Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. E, Novara, poco fa avevamo ospite nella trasmissione con Simone Spezia e Maria Latella il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolini. Non ha ancora chiarito se lunedì ha parlato, forse che ci saranno delle gestioni a livello provinciale, non si sa cosa succederà delle scuole. Io so che non ce la faccio più a casa con due figli. Certo. Cosa facciamo con queste scuole, Novara? Beh, la mia idea è quella che lunedì bisogna riaprirle le scuole senza mezzi termini, perché un'emergenza deve avere un limite, altrimenti crea veramente l'angoscia totale. Se non c'è un fine a un'emergenza, se non c'è un paletto, diventa complicato poi gestire la situazione sul piano psicologico. Quindi la scuola è il segnale che la vita riprende. Sì. E quindi si dovrebbe. Dico che la ministra dovrebbe avere un po' più di coraggio e fare quello che in tante regioni è stato annunciato, ossia che l'emergenza dura fino a sabato e poi lunedì si torna a scuola. Se poi qualche famiglia non vorrà tornare a scuola, non penso che nessuno si strapperà i capelli. Ecco, ma se no nel frattempo cosa si fa? Cioè, perché ha parlato, il ministro Azzolina ha detto questa frase, comunque stiamo mettendo a punto tutte le questioni legate alla didattica a distanza. Io quando ho sentito questa frase ho detto eccola là, le scuole non riaprono. Io parlo sempre da genitore disperato. Ma quella frase francamente ha lasciato tutti col fiato sospeso, ecco, perché cosa facciamo? Facciamo scuola con Facebook, con i social? No, ecco, questa è una deriva, è una soluzione, è una deriva. Però ecco, in tempi di emergenza si potrebbe fare, no? Ok, però i dati sono quelli che anche voi avete raccontato, sono dati che al momento c'è un contenimento della situazione, sono dati gestibili, non è che stiamo parlando, nessuno parla più di pandemia, ecco, stiamo parlando di una situazione che tolta la zona rossa, le zone rosse, è una situazione assolutamente gestibile. Penso che sia legittimo che nelle zone rosse le scuole vengano ancora tenute chiuse per forza, ma trovo originale che, non so, le Marche chiudano le scuole senza un caso di contagio nelle Marche. Ecco, qua siamo veramente alla psicosi, non so come dire. Allora qual è il danno? Qual è il danno? Il virus o questo panico, no? Forse paura, si sono accorti che paura che c'è. Sicuramente il virus fa danni, ma fa danni anche la paura da virus, questo non c'è dubbio. Daniele Novara, però, guardi, io voglio presentare anche uno scrittore che è anche un ebraista importante, si tratta di Matteo Corradini. Buongiorno Matteo. Grazie. Buongiorno. Lo conosce. Ciao Matteo. Buongiorno. Questa carrambata, allora, Matteo Corradini, due vicini alla zona rossa, esatto. Sì, Matteo Corradini, tra l'altro, scrive soprattutto per ragazzi, oltre ad essere un ebraista anche, insieme ad altri scrittori hanno pensato a questa idea di dire ma ci sono tanti ragazzi, studenti che stanno a casa, allora avete creato un sito che è www.lezionisulsofa.it. ecco, il sofà però è senza accento, lezioni sul sofa, evidentemente, punto it. Matteo, e che cosa vuol dire questa piattaforma? L'idea è questa: noi scrittori facciamo compagnia ai nostri lettori tutto l'anno, in fondo, no? E in certi momenti forse dobbiamo fare compagnia ancora di più. Abbiamo pensato alle migliaia di ragazzi che sono a casa in questo momento, magari un po' si annoiano. Noi sappiamo bene che la noia è anche molto positiva, io non sono di quelli che sono contro la noia, però la giornata è lunga e in certi momenti potrebbe essere piacevole leggere un libro, avere a che fare con uno scrittore che ti racconta qualcosa. La stessa cosa che noi scrittori facciamo durante tutto l'anno, cioè incontrare i ragazzi, una volta tanto la facciamo online, e quindi tanti scrittori italiani che normalmente scrivono libri, incontrano ragazzi in giro per l'Italia e si sono messi tutti insieme gratuitamente, questo ci tengo a dirlo, per fare questo sito di servizio. Ci sono materiali, come dire, i più vari possibili, insomma, da alcuni che parlano di Joseph Conrad a disegni da colorare per i bambini più piccoli, insomma c'è davvero di tutto. È un modo davvero per far passare le giornate in questi giorni in cui non tutti possono andare a fare vacanze o girare, ma sono chiusi in casa. Lezioni sul sofa.it. Ma è vero che c'è talmente tanta richiesta che fate un po' fatica anche dal punto di vista tecnologico a reggere la domanda? Allora, prima che mi chiamaste voi ero al telefono con chi ci fornisce il servizio, stavamo aumentando la potenza dei server perché ieri è andato in crash diverse volte, ho delle mamme disperate che mi scrivono. Sono lì a metà della storia di tutto, quindi sono nei guai, della mia reputazione, della mia vita, quindi spero che questo server torni a galla. Chiedo ancora un quarto d'ora, mezz'ora di pazienza e poi dovrebbe tutto funzionare. Bene. Ma io vorrei chiedere a Daniele Novara se, al di là delle scuole o no, esatto, qual è il modo giusto per sopravvivere, utilizzo questo verbo, in questa settimana con i figli a casa di varie età? Dobbiamo fargli fare i compiti, tipo, Daniele? Oppure no? Facciamo. Allora, anzitutto, per i bambini va detto che vale il principio montessoriano, cioè i bambini sono in grado di auto-organizzarsi di costruire delle attività di gioco, basta che le condizioni siano favorevoli. Se vengono continuamente sgridati, ovviamente è difficile che poi riescano a farlo. Si tratta di vivere questa settimana, sperando che si tratti solo di questa settimana, come sostengo, come la domenica, e quindi bisogna organizzarsi in quel senso. Al mattino è bene dedicarsi alla casa, fare le attività di casa, che può essere sistemare anche le cose che ci sono, i vestiti, i libri, i giochi, preparare da mangiare, tutto quello che attiene i lavoretti, no? Così disprezzati a suo tempo, ma che in realtà sono importantissimi. Il pomeriggio, viceversa, ci si organizza per andare a un parco giochi, per fare per chiamare un amico, due amici, e quindi andare al parco. Sì. Ci sono gli indizi di primavera in questo momento. Cioè, questo è il mondo ideale. No? Poi, come ci scrivono molti genitori, questo è il mondo ideale. Poi, come ci scrivono molti genitori, gli leggo un messaggio che è arrivato dal mio caro amico. Sì. Oggi sì, a Montessori verrebbe legata coi cavi della PlayStation e tenuta. No, lì, no, no. Dice di no. Non condivido perché. No, da molti bambini, da molti bambini, dico, da molti ragazzini, no? Sarebbe. Dice Montessori, stai lì seduta, che noi giochiamo a Fortnite per 4 ore. No, io direi di no, perché se si creano le condizioni, i bambini vogliono fare giochi concreti, pratici, andare all'aperto, Ovviamente, ecco, un espediente utile è il programma della giornata. Sì. Ecco, questo è un espediente molto molto utile. Sì, se uno li lascia lì sul divano è chiaro che... Esatto, preparare un programma e fare attenzione ovviamente agli eccessi televisivi. Quando si fa mezz'ora al mattino, mezz'ora al pomeriggio è più che sufficiente, anche perché purtroppo sto già sudando. Le informazioni sono... inquietanti, ecco, non sono all'altezza perlomeno dei bambini, ecco. Vabbè, no, ma allora, i ragazzi magari si sono già organizzati. Nel caso invece, io ritorno un attimo da Matteo Corradini nel salutarvi e ringraziarli. Ecco, Matteo, devo dire che i nostri ascoltatori, che sono già molto avanti, qualcuno infatti mi ha già segnalato ma sono entrato sul sito effettivamente adesso ha dei problemi, ma perché lo state sistemando? Perché... lo stiamo sistemando intanto che i bambini a casa stanno sistemando la loro cameretta, noi sistemiamo il sito. Credo che se lanciamo questo messaggio agli italiani, bambini, se rimanete a casa, mettete in ordine tutto quello che c'è da mettere in ordine, credo che domani andranno tutti a scuola. Infatti adesso, guarda, mando in pubblicità, manderò ai miei figli, ha detto Daniele Novara che dovete sistemare la cameretta a casa e sistemare tutto. No, comunque, nel ringraziarvi, Daniele Novara, ripeto, Matteo Corradini e creatore insieme ad altri scrittori del sito, la piattaforma www.lezionisulsofa, senza l'accento sulla A, quindi lezionisulsofa.it, che in questo momento, se lo trovate in questo momento che è un po' in difficoltà come sito, tra mezz'ora al massimo si spera sarà tutto a posto, e lì ci sono tanti modi per far trascorrere la giornata ai vostri figli, insomma, che Dio ce la mandi buona, ecco, perché soprattutto che riaprano le scuole lunedì. Questo è l'appello che credo molti genitori. Che riaprano le scuole, vi prego, che riaprano le scuole. Grazie Matteo. Saluto anche Daniele Novara. Che riaprano le scuole. Ecco, vi lascio con questo auspicio alla pubblicità. Che riaprano le scuole, per favore. Uno, nessuno, 100 Milan. Devo dire che è un profluvio di messaggi a chi dice ma sì, ma se si lavora come si fa a applicare le idee di Daniele Novara, o chi dice ma insomma gli adolescenti adesso altro che sistemare la cameretta ti mandano a quel paese, chi è in difficoltà. Guarda questo, sono un prof di liceo forzatamente a casa con due figli di 19-17 anni e non li sopporto più. Immagino te con due bambini, in bocca al lupo Giancarlo. Grazie Giancarlo, è arrivato Manera. Buongiorno eccolo a tutti qua. Mi passi della mucchina? ma scusa, me la fai pagare? Perché con quello che costa, ecco qua, mi ha messo un po' di ammucchina sulle mani. Ale, la soluzione, se avete figli a casa e non sapete come fare, è riunirli insieme a tutti gli altri bambini e organizzare delle belle feste in casa piene di gente. Eh sì, a casa tua. Ottima idea. Lo porto oggi alle 2:30, te lo ritiro alle 20. Degli assembramenti in casa, di feste in casa. Dove... evitate luoghi affollati. Ma scusa, ma io penso che tutti, lo dicevo prima... C'è anche il clown Neronello, guarda, oggi. Il clown Neronello organizza feste per bambini. Con coronavirus. No, come? Lo dicevo anche prima Elisabetta, che alla fine la soluzione è quella che tutti stanno facendo, anche mio figlio si ritrova a giocare con altri bambini della sua classe. Elisabetta, cosa diceva ieri della Svizzera? Cosa diceva? Sì, che era esente dal coronavirus. Noi svizzeri, noi dell'Appenzello non abbiamo niente. L'ha detto mezz'ora dopo. Primo caso. Scusate se rido, non è che voglio ridere. Sta arrivando furente qui e furiosa Elisabetta Fusconi. Eccola, preceduta dalla sua sigla inconfondibile. Si munisce di cuffia. Vabbè, ma dai, torno indietro e cancello quello che ho detto. Non... ma cosa? Non so, c'è anche degli orecchini che suonano. Ma sembra cosa proprio vuoi? Arrabbiato. Cosa vuoi? È arrabbiatissima. Continua a togliere la cuffia, tra l'altro. Non so se mi state sentendo. Detto questo, sapete che se mi provocate devo rispondere. Cosa succede? Ma che provocazione? Succede questo, che stiamo dando nuovamente una lezione di stile. Non mi risulta che ci siano code di fronte alla Migros, alla Coop, alla Manor. La Migros è la catena di supermercati svizzera. Tanto fa pubblicità la Migros che poi gli passa i punti. Cibo e scorte. Stiamo... educatamente assistendo all'evolversi della situazione. C'è un caso vetico, peraltro infettato a Milano, però vabbè, sarei poco elegante a sottolineare questo aspetto. Detto questo, la lezione di stile sta arrivando anche è arrivato volta. Anche in Svizzera, c'è il coronavirus. Sai che coronavirus? Il problema in Svizzera col coronavirus è che sai che nei luoghi pubblici hanno detto dobbiamo fare la disinfestazione, e hanno detto ma qui è già disinfestato, cosa facciamo? Sta lì con i cosi spenti, sì. Stanno con in mano gli aspirapolvere. Quanti luoghi comuni, la classica non ride proprio. Il festival dei luoghi comuni, dai. Irrigidità. Non rido, in realtà ridevo prima sotto i baffi perché veramente siamo tutti uguali. Su Twitter in Svizzera si sta discutendo, ci sono i cantoni del nord della Svizzera che propongono, alcune persone che vivono nei cantoni al nord della Svizzera propongono di chiudere il Gottardo. Ed impedire ai ticinesi, ma quindi quello che trasmette da Cruciani, il Gottardo, lui il tunnel del Gottardo, dico che alla fine le dinamiche sono un po' tutte sono uguali. Elisabetta, vai e uccidi Rossella. Appena sentito parlare di Svizzera ci sono persone che che invocano, vabbè, leggete cosa chiedono i leghisti ticinesi, ma di chiudere le frontiere, ma per l'appunto nessuno grazie a Dio gli sta dando retta. Vedi Franco, primo caso in Canton Ticino, notizia ieri sera da amici di Luino. Stiamo parlando anche in questo caso di una persona anziana, sì, a 70 anni, comunque sì, non è in pericolo di vita, è isolato al Moncucco. Al Moncucco, che è una clinica luganese. Ah, il Moncucco. Tu sei, e non c'è l'allarmismo. Diciamo che stiamo dando anche una lezione di poca teatralità. Io non sto più sopportando questa teatralità italiana ai tempi del coronavirus. Vabbè. Riusciamo a essere teatrali anche con il coronavirus? Ci vuole togliere anche queste ultime caratteristiche rimaste. Ci è rimasta solo la teatralità, ma la commedia dell'arte. Tu perché stai in Italia? Vuoi svelare questa in cosa? Altre puntate, dai. In altre puntate, diciamolo subito. Bene, vai a lavorare. Posso tornare a leggere vai i giornali? Vai a lavorare. Niente, qua appena nomini la situazione, questo è. Basta, non aiutate la Fusconi, aiutiamo la casa sua. Effettivamente ci sono dei messaggi controversi. Io stamattina sono venuto però per dire una cosa. Voglio dirla anch'io perché la sento dire da tutti i giornalisti. Quindi ho la soddisfazione di dirla ai microfoni di una radio nazionale. Misure draconiane. Tutti. Ho sentito anche stamattina Simone Spezia, lo dicono tutti i giornalisti, misure draconiane. Un po' come fibrillazioni nel governo. Misure draconiane, lo dicono tutti. Adesso sono andato a vedere chi è Dracone, tu lo sai chi è Dracone. Ci hai fatto la cultura. Sì, cioè, perché sentivo tutti che c'è misure draconiane. Sapevo che voleva dire misure drastiche. Ma ho verificato che si riferisce a Dracone. Sai chi era Dracone? No, adesso però ce lo stai per raccontare nei minimi dettagli. Un legislatore ateniese che intorno al 600 avanti Cristo ad Atene prese e fece uno dei primi codici in cui le leggi erano molto dure e severe, da cui misure draconiane. E quindi insomma ti piace utilizzare questo termine, va bene. Elisabetta Fusconi effettivamente ha lanciato anche un tema molto interessante, perché ci chiede un ascoltatore: ma da che età parte l'anzianità? Perché è una persona anziana, ma chi lo sta da quando puoi morire senza che faccia troppo dispiacere a quello che si capisce in questo periodo, perché tutti alcuni lo dicevano anche a 18 anni, guarda che sono talmente odiosi che ma lo senti in questi giorni, no? C'è quasi una punta di sollievo nei giornalisti che dicono ma era anziano. Infatti vedi un'altra rivolta, ma gli anziani non contano niente, se muore un anziano va bene? Ragazzi, smettetela di dire che dai 70 si è anziani, ne ho 71. Oh ragazzi, ma Elisabetta Fusconi è lei che entra in onda qui, non richiesta, diciamo anche e che fa anche dei danni pazzeschi, poi rivolgetevi a lei. Dirla tutta, anche Elisabetta Fusconi non è molto lontana dall'età in cui si può definire anziana, ecco. No, ti prego, non citarla più, non evocare più queste cose perché poi partono le sigle. Vabbè, ma tu come vivi? Il bar Jimmy chiude alle 18? Non ho verificato perché io questi giorni sono barricato in casa. Però il bar Jimmy potrebbe essere, insomma, è piccolino, però non credo, perché il signor Jimmy ormai ha fatto tutte le malattie del mondo. Secondo me ha fatto anche il coronavirus. Quindi, secondo me il bar Jimmy ha detto ma meno male che chiudo alle 18, vado a casa. Il signor Jimmy e il bar Jimmy avrà detto meno male, ma chiudiamo alle 18, andiamo a casa e va bene così. Va bene, dai, sono le 9:44 minuti, è il momento di andare alle informazioni sul traffico. Ale. 1 nessuno 100 Milan. Milana, l'ignoranza è il vero problema e questo fatto, come se se ne fosse stato bisogno, l'ha confermato. Ah, mascherine sì, mascherine no. Io ho un'amica cinese che l'ha vissuto sulla sua pelle e lei raccomanda mascherine, distanza tra le persone. Perché no? Perché no su misure di prevenzione? Perché dicono gli infettivologi, cioè la scienza, che non servono a nulla. Allora, se dobbiamo... Non serve, sì, ho capito. L'intervista alla virologa del sacco. Lo a so, proposito, ho letto, le mascherine ho visto. Servono? Risposta secca. No. Sì. No, allora. No. Chiaramente ai medici servono, a chi è malato servono. Sì. In metropolitana, no. Sì, però... Adesso io non lo so, da ignorante lo chiedo, lo chiedo da ignorante. Lo chiedi a una virologa. No, faccio questa domanda. Mettiamo che uno starnutisca, mi starnutisca più o meno in faccia. Se io ho una mascherina che un po' mi protegge la bocca e le mucose almeno dal naso, resto un po' più protetto o no? Domanda, è una domanda da ignorante. Domanda alla virologa Gismondo, ma servono allora queste mascherine? No. E quindi sì, ma la risposta è no. Secondo lei. Se ma poi magari altri virologi. No. questo lo dice lei, virologa del nel senso sacco. Che magari altri virologi non la pensano così, non lo so. Ecco, sarebbe utile che tutti i virologi. Beh, no, veramente io sui virologi tutti dicono le mascherine utilizzate dalle persone. L'hanno detto tutti: le mascherine servono ai malati per non infettare gli altri. Quindi per me a questo punto, se vedo uno in metropolitana con la mascherina, dico sei malato. Però alcuni malato. Sì. Sei malato e non mi vuoi infettare. Ma io faccio domanda ignorante. Se tu sei in metropolitana, ammettiamo, no? E ci sono questi microbi che galleggiano, come ci ha detto l'altro giorno nell'aria. Sì. Se tu hai la mascherina, eviti forse che quel microbo galleggiante ti entri nel naso. Ma perché lo chiedi a me? Io allora alle 10.45 Nicoletta Carbone lo chiederà ai virologi nello speciale che c'è. Sta di fatto che tutti i virologi ai quali è stato chiesto dicono non servono ai medici negli ospedali, nella zona rossa, ai militari che ti fermano, ma non servono, cioè non servono alla gente comune. Allora, peraltro Burioni ha anche detto che il 90% delle mascherine che vede in giro sono messe male. Ok, questo quindi, è vero. E quindi ma allora, io faccio solo questa domanda, se non servono, perché i militari che sono nella zona rossa li tengono? Nella zona rossa appunto. Nella zona servono negli ospedali, nella zona dove rossa, ci sono persone, dove ci sono persone, esatto. E allora ma non me servono... ne può capitare una magari in metropolitana. Vabbè, vai con lo scafandro. Comunque allora, questo è il momento d'oro dei virologi. I virologi sono in gran moda adesso. Io voglio adesso conoscere una virologa persona. Ho conosciuto solo una volta una virologa in vita mia. Va bene. Allora, ogni problema, come spesso succede, ci dà anche qualche opportunità. Non so se effettivamente sia vero, ma spesso i vari guru e motivatori così ci fanno credere. Però in questi giorni di coronavirus posso constatare che effettivamente ci si apre anche qualche possibilità inaspettata. La prima che mi viene in mente è quella di poter provare il brivido della trasgressione in fondo senza rischiare molto. Ad esempio, se prima per provare un brivido magari si era costretti a buttarsi giù da un ponte con l'elastico attaccato alle caviglie, adesso è tutto molto più semplice. Basta andare a bere un caffè in un bar dove ci sono anche altre persone senza mascherina, così intanto viene naturale pensare chissà se qualcuno di loro ha il coronavirus e l'adrenalina va a mille. Quel caffè ti sembra delizioso, molto meglio di tutti quelli che hai bevuto prima in vita tua, ma solo perché è accompagnato dal brivido della trasgressione. Controlli che la tazzina ti sia servita senza troppi contatti con le dita del barista, la metti in bocca proprio lì dove ti sembra più esente da possibili microorganismi e poi lentamente fai scendere il caffè nel tubo digerente gustando quella miscela che fino al giorno prima davi per scontata e godi come mai prima avevi goduto con un semplice caffè. Ma non è l'unico esempio di nuova emozionante trasgressione. È sufficiente stare in coda al supermercato a prendere la lattuga e ti senti come se girassi in macchina a fari spenti nella notte, senti l'emozione che sale, oppure se hai un appuntamento con una ragazza e ti chiedi chissà se lei ha mai avuto contatti col paziente zero, e questo fa salire l'adrenalina. Inoltre, col coronavirus siamo diventati tutti più educati. Ieri sono andato da un ferramenta a comprare una confezione di chiodini da muro, perché a me piace attaccare i chiodi sul muro anche senza quadri. Ho l'hobby di avere chiodi sul muro. Comunque il commesso del negozio me li ha dati con una tale educazione che neanche se fossi stato a corte dalla regina Elisabetta. Ha preso la confezione con due dita e me l'ha appoggiata sul tavolo, badando bene a rimanere a una certa distanza da me. E lo ha fatto, anzi abbiamo fatto entrambi, l'ho fatto anch'io quando è arrivato il momento di pagare. Uno scambio educato, mantenendosi alla giusta distanza per non invadere la sfera personale altrui. Poi, almeno a Milano, i pub, dove spesso si rutta a causa la birra, di sera non possono rimanere aperti, possono invece continuare a lavorare i ristoranti, dove però i ruttini sono più educati, meno invasivi, meno forieri di virus. Insomma, il coronavirus ci sta portando anche le buone maniere. Ci si dedica anche di più all'igiene personale e poi si fa scorta di carta igienica, probabilmente pensando che in questi tempi difficili una delle soddisfazioni principali possa passare proprio dalla tazza del water. Insomma, questa epidemia, se di epidemia si può parlare, come ogni malattia ci obbliga a fare i conti con noi stessi. La differenza è che ce li fa fare anche se non siamo ammalati, ma solo perché temiamo di poterlo diventare. Poi, poco alla volta, tutto tornerà come prima e quando le cattive maniere torneranno nuovamente a invadere le nostre vite, ogni tanto ci fermeremo e penseremo: ti ricordi com'era bello quando c'era il coronavirus, strade vuote, metropolitana vivibile, tanta, tanta educazione in più. Basta lasciar passare un po' di tempo e del coronavirus ricorderemo solo le cose belle. D'altra parte, si sa, si stava meglio quando si stava peggio, e anche col coronavirus alla fine sarà esattamente così. Allora, bravo Leo, rileggo la parte dell'intervista all'infettivologa, direttrice di laboratorio di microbiologia clinica e virologia dell'ospedale Sacco di Milano, quella che sta gestendo tutti i campioni. Quando mia nipote mi ha visto con una mascherina, lei la usa ovviamente, mi ha domandato se mi ero travestita da microbiologa per carnevale. Chiede il giornalista, la giornalista Brunella Giovara. Ecco appunto, queste mascherine servono? Risposta del capo microbiologo: no! No! Punto. No! Tra l'altro molti dicono: primo, ti becchi dalle mucose degli occhi e infatti, ti metti la mascherina sugli occhi. Sì, sì, no, mio... Secondo, altri dicono: le mascherine, solo alcune classificate, fermano il virus, le altre, il virus è talmente piccolo che non lo filtra. Non servono. Poi, oh, se volete metterla e rendervi ridicoli, ma mettetevela. Ma io comunque, frega, sai, cioè, cosa faccio? Taglio la testa al toro, vado in giro con un sacchetto di plastica sulla testa, bravo, fino al collo. Bravo, bravo. Sentiamo Piero dalla provincia di Piacenza. Mi dicono essere un medico, ci ha chiamato. Sì, buongiorno. Buon dì, ecco. Leonardo, senta, a parte che per quanto riguarda le mascherine nessuno dice che durata hanno, 12 ore, 24 ore, 48 peraltro, ore, peraltro, gente che va con la sciarpa, gente che si mette la sciarpa sulla bocca e pensa di essere immune, ma io dico, ma vabbè, dai, su. E per quanto riguarda l'igiene, ma pensi, sarebbe sufficiente che dicessero alle persone, visto che oramai c'è gente che è in paranoia totale, ma portatevi dietro un flacone da 50 ml col contagocce di aceto. Quando stringete le mani a qualcuno come maniera che magari può essere pericolosissimo, dopo che gli avete stretto la mano, vi mettete 5-6 gocce di aceto. Ma questo è interessante, interessante. Ma perché non c'è nessun virus che tenga con l'aceto. Ah, davvero? Ma deve essere... virus e batteri, ah, questo, certo, è molto interessante. Ma che tipo di aceto? Bianco, rosso, balsamico? Quale dobbiamo usare? Basta che non sia il balsamico, basta che non sia il balsamico. Eccolo lì, io uso il balsamico. Se di meno il comune aceto di vino, il comune aceto di spirito, basta, è sufficiente. Sia bianco che rosso? Va bene, qua si sono perse due opportunità fondamentali per capire una cosa. Prima di tutto ci sono le persone che non hanno un bel niente e le persone che ci lasciano le penne. Ci lasciano le penne le persone che hanno delle patologie già gravi e severe, e tra l'altro c'è da pensare questo, che ogni anno negli ospedali muoiono dalle 6 alle 7 mila o anche più persone per infezioni contratte in ambito ospedaliero, sia polmoniti che broncopolmoniti, quindi siamo ben oltre, e contagiati da queste infezioni negli ambiti ospedalieri si avvicinano alle 100.000 persone. Pensate che razza di cose incredibili che ci sono. Qua si è persa un'opportunità incredibile di capire le persone che non hanno nessun problema con questo coronavirus, che cosa fanno, che gruppo del sangue hanno, che razza di di alimentazione hanno, perché qua non si tratta di trovare una terapia o un vaccino che per ora non c'è, chissà quando mai ci sarà o via dicendo. Si tratta di dire alle persone: se vi comportate in modo corretto, non indebolite il vostro sistema immunitario e basta, il coronavirus ve lo beccate e quello lì rimane calmo, tranquillo, senza crearvi dei problemi. Questa è la cosa fondamentale, si risparmierebbero tutte queste scemenze, questo mettere in crisi l'economia di un paese. Sì, però devo dire Piero che effettivamente la comunicazione è andata un po' è sfuggita di mano. Qui devo dire la colpa anche, perché Maria Rita Gismondo nel proseguo dell'intervista ne ha anche per l'informazione e dice: certo che se invadi i video e le TV di città deserte, ambulanze a sirene spiegate, militari a ogni angolo con le mascherine, sì, dai l'immagine di Chernobyl, no? Dai l'immagine di Chernobyl. C'è gente che mi chiama, parenti fuori da Milano, a dirmi: c'è il panico per le... E tu magari sei lì in coda dal panettiere a dire: senti, rompermi i coglioni che devo pagare, sì, un attimo. Il tono è veramente insopportabile quando vedi un giornalista che è lì davanti all'ospedale con la mascherina, però è nella zona rossa. Sì, ma poi dice: attenzione, siamo qui davanti all'ospedale, è arrivata un'ambulanza. Ma per forza, cioè... ci deve arrivare davanti all'ospedale. È arrivato un'ambulanza, sì. Cioè, scusate, io sorrido, ma non voglio sminuire. Non voglio sminuire. Noi qui a Radio 24, e non lo facciamo, lo so, chi si loda si imbroda, non lo farò io. Quello che facciamo è, da giorni, dare spazio a chi ne sa. E non sono certo io, non è nemmeno Leonardo Manera. Io qualcosa ne so. Vabbè. Nicoletta Carbone, per esempio, alle 10.45 tutti i giorni parla con gli infettivologi qui in diretta e rispondono alle vostre domande. Ti ricordi il numero di telefono? Sì, complicatissimo. Era un 335, adesso poi ve lo diamo. E questo facciamo, cioè non è che dico io che le mascherine non servono, non lo dico io, smettiamola di... lo sta dicendo la capa infettivologa del sacco, microbiologa, lo stanno dicendo tutti i medici, non lo dico io riporto quello che dice la scienza. Bianca, va bene? Fammi dire una parola sola, sì. Misure draconiane. 1, nessuno, 100 Milan. Milan, devo correggere la signora lì, svizzera, che cavolo è? Gli svizzeri dal Canton Ticino vengono in Italia a depredare i supermercati. A Porlezza, che è a 5 minuti da Lugano, i supermercati sono stati presi d'assalto dai signori svizzeri. Vediamo di dire le cose come stanno, cara signora. Cara signora Fusconi. Milan, ti amo! Cioè, mi piace molto di più Manera, ma oggi sento di voler bene anche a te. Vabbè, io mi accontento. Ah, mi hai tradito allora con quel cane maledetto di Alessandro Milan. Effettivamente ci vorrebbe... Sì? Eccoci, no, aspetta, c'è un altro messaggio. Leonardo, ma cosa ne pensa la tua ex ragazza infettivologa? Dai, avrai avuto una ex ragazza infettivologa, no? Che ovviamente poi ti ha lasciato miseramente. Sì, ho frequentato una ragazza... Oddio, sta piangendo. Non lo so, si è tolto gli occhiali. Cos'è? Hai la congiuntivite da coronavirus? No, no, era un medico che mi ha frequentato per un po', poi... Lei ha frequentato te. Sì, anch'io lei. E poi cos'è successo? E chi lo sa? È successo che poi una sera abbiamo... Non posso raccontarlo perché mi commuovo. No, scusa, rido, dai, perché non è vero. Posso, lasciamo stare, che solo ripensare lei mi fa venire le lacrime agli occhi. Hai congiuntivite, forse? Forse. Forse. Bah. Ragazzi, cari ascoltatori, non lo so, sta succedendo un momento. Non è stato proprio un fidanzamento, c'è stato solo un bacio. Guarda che ti sei ripreso subito. Un bacio nel 2002, 2003, tantissimi anni fa. E ripensando a questa storia rimasta a metà con un solo bacio, forse poi mi viene un po' di amarezza. Sì. Ma ero di buon umore stamattina. Quindi voglio dire, non possiamo scrivere la tua fidanzata. No, per me non c'entra, non è che la misura del fidanzamento si misura dalla quantità e dal rapporto fisico. Per me tutte le persone alle quali ho dato un solo bacio sono anche in qualche modo state fidanzate, perché per un momento ho pensato di poter intraprendere un percorso di strada insieme. Visto che è romantico. Mamma mia, ragazzi, hai detto anche ecco, subito era romantico e venite a interrompere questo momento. Allora io voglio fare un appello pubblico, insomma, un appello pubblico a Maurizio Milani, che tu conosci bene, grande comico, che vive a Codogno, proprio a Codogno, il luogo del, insomma, dell'epicentro della zona rossa. E lui tra l'altro ha iniziato questa rubrica, com'è che si chiama, sulla verità, da Isolato Fisso. Sai che lui aveva la rubrica Innamorato Fisso, Isolato Fisso. Io vorrei, dai Maurizio, domani vieni qui al telefono, perché non potrai uscire, immagino, da Codogno. Al telefono con noi c'è Leonardo Manera, so che vi conoscete. Sì, sì, abbiamo frequentato a lungo gli stessi locali. Guarda oggi cosa quando scrive... ancora erano aperti i locali, perché ormai... Ecco. Guarda cosa scrive oggi Maurizio Milani sulla verità. Noi di Codogno, che abbiamo il vizio del gioco, siamo in grande difficoltà. Delle 200 slot machine che c'erano non ne funziona più neanche una. Io ho dovuto trovarmi un'altra dipendenza, mi lavo le mani. Passo una o due ore al giorno con le mani sotto l'acqua, mi sono venute tutte bianche. Vorrei fare un appello al governo, dateci le sale slot! Nella zona rossa potete aprirne anche di nuove. Noi 50.000 isolati andiamo subito a giocare come matti, anche 500 euro al giorno. Io nel frattempo sto speculando sugli immobili, il prezzo delle case qui è crollato, con 100 euro ho comprato 12 appartamenti, 25 box a 1 euro, una villetta a 26 euro, quando finisce tutto metto tutto in affitto a 600 euro al mese. E così, Isolato Fisso. Dai Maurizio, non ci ascolterà. No, magari sì. Poi glielo riferirà qualcuno. Ecco. Mi farebbe anche piacere risentirlo, perché non lo vedo da tanto tempo, lo sento anche da tanto tempo. Grande Maurizio Milani, se vuole qui domani. Oh, ci criticano anche qui, anche a Radio 24 avete buttato benzina sul fuoco del virus, meritereste qualche sberla. Ma in realtà noi, voglio dire, informiamo... Ma adesso non voglio dire noi siamo bravi e altri no. Cos'erano, delle sberlone? Questo meriteremmo, secondo l'ascoltatrice o ascoltatore. In realtà noi diamo spazio alla scienza, ai medici, che tra l'altro non tutti sono concordi. Anche no, loro, basta vedere un po' la disputa tra Burioni e la Gismondo. La Gismondo. Appunto, Però, insomma, dai. Allora, comunque alle 10.45... Se voi prenotate la vostra domanda, dai il numero per chiamare Nicoletta Carbone e la mandate, dai. Al 335 100 6297. È complicato. Però, 335... Chi ha scelto questo numero? A Scaglioni, signora Scaglioni? Non lo so. 335 100 6297. Non si può memorizzare. Cioè è un numero creato apposta per non far telefonare. Vabbè, però se noi lo ripetiamo ossessivamente, vediamo, tu cosa ricordi di questo numero? 100 100 100 100 335 100 6297. Ecco. Dai. Vediamo. Provate. Tra un minuto te lo richiedo. Lì potete mandare le vostre domande. Alle 10.45 gli infettivologi rispondono ai vostri dubbi. Sì, che poi ormai insomma li abbiamo sentiti tutti i virologi, quindi ormai non è che abbiano anche altre cose. Le informazioni ci sono, poi si ripetono sempre quelle. Però. Alessandro, dalla provincia di Brescia, eccoci. Ciao a tutti, grande ciao. Milan e ciao Leonardo, io sono un po' più su di te sul lago di Garda. Dove? A Garmiano. E quando scendo in acqua a fare il bagno immetto il virus e poi arriva giù da te, quando entri in acqua a fare il bagno te lo becchi te, poi se vuoi le emozioni forti. E comunque io intervenivo per dire una cosa su tutto quello che sta succedendo per quel che riguarda la scuola. Stanno mettendo in piedi un grande casino per lezioni via web e tutta una serie di cose, quando basterebbe fare prendere ai nostri figli in mano i loro libri, che sono intonsi, nuovi di zecca, comunicare magari quali pagine leggere, quali studiare, e poi verranno riprese molto semplicemente in classe e senza andare a sprecare altre cose, fotocopie, materiale didattico in più, quando ci sono questi libri che abbiamo pagato e alla fine possono benissimo utilizzare, anche perché glieli fanno portare a scuola tutti i giorni tutti i libri, e dovrebbero anche istituire la lezione di Sherpa, perché la mia bambina di 9 anni va con uno zaino che pesa tra gli 8 e i 10 kg. Sì, questo è vero. Sherpa per questo, vabbè. E possono allenarsi per le future gite in montagna. Va bene, grazie Alessandro, va bene. Intanto, no, ma che succede? Sono ancora qua. No, perché oggi è particolarmente agguerrita. No, sono particolarmente invadente. Ci hanno detto che c'è Anacleto. Anacleto? Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori e a tutti e tre. Senti, è arrivato lì il coronavirus a Chiesina Uzzanese? Allora ti spiego una cosa, a parte che qui, perché c'è scritto di disinfettarsi con l'alcol, no? E noi siamo pieni d'alcol, sicché non ci piglia, qui in Chiesina, vabbè. Prato, non è quell'alcol, non è quello. Dolce di grappa, in quella capito? Zona. Niente, qui sì, c'è un caso qui a Pescia, ma io non lo piglio, le carogne non lo pigliano. Ma tu è vero che volevi parlare con la nostra Elisabetta Fusconi? Sì, perché ha una voce molto aspetta, ci pensavo ora venendo da Prato, perché era sulla autostrada, ha una voce molto particolare, molto impostata ma chiusa, capito? Parla tutta in questa cosa maniera. Vuol dire impostata ma chiusa? Non si è capito, Anacleto, non sei chiaro. Ti faccio il verso come parla Elisabetta Fusconi, parla tutto così perché in Svizzera e non ci siamo, capito? Parla con la bocca chiusa, con denti stretti. Poi tu l'hai detto, ma che vita è in Svizzera con i bar chiusi tutti alle 18? Ma io sei per davvero. Effettivamente Anacleto ti vedrai poco a tuo agio in quel di Bellinzona dopo le ore 19, francamente. Allora è meglio sta qua da Franceschino che si beve un po' di vino, si dice tu bischerate e via. Senti, ma lunedì la mia suocera mi disse domenica sera, Paolo, bisogna pensare, perché qui mamma si andò al supermercato un quarto all'8. Quel supermercato lì apre alle 6, no? Sì. Allora ci disse il proprietario, c'era 60 cinesi in fila. Come 60 cinesi? Che ci fanno? Sì, qui. A Prato, che ci fanno? A Prato, cioè. Stanno facendo scorta di viveri. Loro stanno facendo scorta, i cinesi. Madonna, ti dico una cosa incredibile: olio, farina, tutta questa roba io non la trovi mia per qua. Ma dove la mette la gente tutto sto cibo? Io mi chiedevo anche questo. Io in casa non avrei lo spazio per 50 litri d'acqua come quello che ieri ne ha comprati al supermercato. C'è un video, ne ha comprati 144 bottiglie, uno qui di Prato. No, siamo alla follia. Vabbè. Anacleto, fai il bravo, quando arriva il coronavirus dalle tue parti dici qualcosa, vuoi dire ancora qualcosa alla nostra Fusconi svizzera? No, tipo andare a lavorare. No, ora non glielo posso dire, glielo devi fare. No, perché che cos'è un insulto? Lascia stare. No, ne avevo mandato un messaggio a Lorenzo, ma Lorenzino si vede, non te l'ha mai detto. Hai capito, dai, vuole provarci con te. Vuole provarci con te. O che se grullo, io no, ormai sono. Grullo! Sono il canto del cigno. Ciao, grullone! Ciao, Anacleto! Ciao, grullone! Vabbè, che devi fare? Andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. D'Arezzo, buongiorno. Enrico, sì, buongiorno. Eccoci. Prego. Allora, riguardo, sono un medico, chirurgo e dentista, quindi riguardo alle mascherine, quello che state dicendo, le faccio notare che chi porta le mascherine, visto che non ha fatto il test e tutto il resto, non sa se può essere portatore sano. Quindi se porta le mascherine evita di tossire, di stanno dire in faccia alle altre persone, quindi limita il contagio. Non è che è protetto lui, ma è lui che protegge gli altri. Altri. Quindi l'uso delle mascherine non è da demonizzare. Enrico, la questione è cioè io, sembra che lo dica io, Io ho sentito centinaia di virologi a dire l'uso delle mascherine nelle situazioni non servono. Cioè voi scienziati, allora, chiamatevi e mettetevi d'accordo. I dispositivi individuali di protezione noi li usiamo sempre, li stiamo usando. Io sto lavorando, sono un paziente e la mia assistente uguale. Questo non vuol dire nulla. Il fatto che le mascherine debbano essere usate da noi per proteggere gli altri e non sono protettive nei nostri confronti. E fin lì ci siamo. Però gli altri, se le usano, limitano eventualmente la diffusione del germe verso le persone che gli stanno intorno. Quindi le mascherine servono. Cioè, e non c'è nessun ha ragione, è un ribaltamento dell'ottica questa, che è interessante. Uno pensa di metterlo proteggendosi e invece... Lo faccio per proteggere gli altri. Sì, ma protegge gli altri, ma giustamente lei fa il dentista, per esempio, da qualsiasi germe. Infatti tutti i dentisti quando si avvicinano ce l'hanno, no? Ce l'hanno. Non in tempi di coronavirus, ma sempre, tutte le volte che opera lei ha la mascherina correttamente. Va bene Enrico, la ringrazio. Comunque 335-100-6297 è il numero, ormai perché lo leggi, certo, dovresti averlo imparato a memoria. Per fare le domande Nicoletta Carbone alle 10.45 risponderà. Adesso vogliamo parlare anche un po' di altro. Di cosa? In Sicilia non piove, ma non piove da tempo. Allora, questo è un problema serio per l'agricoltura, è un problema serio per la siccità, è un problema di approvvigionamento. Allora, salutiamo Franco La Cecla, che è un antropologo siciliano, l'ultimo suo libro è Essere amici da Einaudi. La Cecla, buongiorno, eccoci. Buongiorno a voi. Allora, a me hanno colpito due cose. Primo, il fatto che non piova, e questo è un qualcosa che colpisce soprattutto l'economia. E poi mi hanno colpito le processioni, le preghiere, le invocazioni, le invocazioni ai santi, che sono da che mondo è mondo un qualcosa di atavico, no? C'è da sempre. Più che altro sono qualcosa di efficace. Sicuramente servono a fare piove, non c'è dubbio. Cioè, perché metterlo in dubbio? Non abbiamo nessun motivo e nessuna prova che dimostra il contrario. Cioè, ma non solo, cioè, devo dire che questo è vero in tutto il mondo, che è legato direttamente alla terra, alla natura e alle risorse. Cioè la gente ha sempre creduto che c'è una maniera diretta di influire sul clima, sulle trasformazioni. Cioè una delle cose che abbiamo dimenticato è che la natura intorno a noi non è passiva come crediamo, perché tant'è vero che le abbiamo dato un bel po' di mazzolate negli ultimi secoli, ma invece la natura è talmente attiva che si sta incazzando. Quindi se la natura si incazza come sta facendo in questo periodo, vuol dire che la natura in qualche modo ci ascolta. Sì, e la natura è una forma, è una individualità. Cioè la natura c'ha una, quello che gli antropologi dicono, una gentilità, cioè in qualche modo c'è un aspetto intenzionale nei nostri confronti, che è quello che dobbiamo suscitare. Gli indigeni lo sanno benissimo. Sì, sì. Cioè il problema non è leggere le cose dal punto di vista scientifico, per cui è assurdo che qualcuno preghi perché ci sia la preghiera. Mm-hmm. La questione è perché non piove da noi. Cioè, la questione è perché nel destino individuale le persone gli succede qualcosa che non è casuale, ma che la gente legge come intenzionale. Lei dice non è casuale, ma da quant'è che non piove esattamente in Sicilia? Da tempo, no? Credo da due mesi almeno non piove. Questo che è un inverno, per esempio, domenica nel Nisseno vicino a Marianopoli c'erano 600 persone raccolte in preghiera per invocare la pioggia, no? Quindi lei dice che di fatto la natura ha anche un elemento emozionale, diciamo, in qualche modo? No, personale, non è emozionale. Cioè la natura in qualche modo è sicuramente, cioè, un agente, tant'è vero che agisce. nel senso che tutte le forze della natura è se agisce, se noi possiamo con un'azione di processione o di preghiera influenzare questa azione della natura, e questo è sicuramente grande. Possiamo molto di più che se costruiamo l'Ilva, cioè nel senso che sicuramente c'è una, noi sappiamo come farla reagire male. Quindi, visto che siamo noi che abbiamo fatto di tutto perché reagisse male, forse possiamo fare qualcosa perché reagisca bene. Sì, questa è una teoria molto opinabile, sa che molti razionali all'estremo la prenderanno per matto, no? A sostenere questo titolo. Ma i razionali hanno perso. Hanno perso, lei dice. Beh, cioè, danza... un ateo, allora, ad esempio, come potrebbe fare? Un ateo, uno agnostico. Ah, un ateo. Ma che c'entra? Non è, la natura esiste, non è che uno deve credere in Dio perché ci sia la natura. Quelli però hanno fatto la processione con i preti, no? Ma questo, sì, certo, però ovviamente la Sicilia, essendo un posto molto pagano, fa la processione con i preti per ristaurare tutti i riti greci magnifici che c'erano. Cioè, la Sicilia è un posto greco, per cui quello che accade non è un paganesimo, diciamo, di natura selvatica, è il grandissimo sostrato della dea madre greca. Cioè, hanno fatto la messa ad petenda pluviam per chiedere la pioggia. Bellissima, la formula è stupenda, devo dire. Siamo lì con il vicario generale Monsignor Giuseppe La Placa, ha celebrato la messa ad petenda pluviam. Vedete che pioverà sicuramente. Lei dice, però da come parla lei pioverà, non si capisce se lei lo dice con un senso vago di ironia, perché ci sta un po' prendendo in giro oppure no. Lei è serissimo, in realtà è un po' un funambolo sul filo, non capisco se un goccio, giusto, mi passi la parola goccio visto che stiamo parlando di pioggia, un goccio di ironia ci sta prendendo per il culo o no. C'è una storia molto bella di un grandissimo antropologo che era Evans Pritchard, che lavorò in una zona che oggi fa parte dell'Etiopia, che tra i Nuer, e allora lui era un razionalista, per cui quando gli elefanti arrivavano negli orti dei Nuer e gli distruggevano l'orto a cui avevano lavorato tutto l'anno, lui diceva: ma non vi dovete preoccupare, perché è normale che gli elefanti distruggano gli orti perché gli piacciono le cose. E loro dicevano: sì, ma perché il mio? Giustamente, quindi voi vi chiedete perché proprio qui in Sicilia non piove. Certo, cioè è il destino personale, perché siete al sud, e siete al sud, siete vicini, come dire, all'equatore, più di noi, più di noi di Milano, per dire, quindi insomma, pioverà. Sicuro. L'antropologo, ma quando più o meno? A sto punto facciamo. Dipende dall'intensità delle preghiere. Dipende dall'intensità delle preghiere. Leonardo. Io andrei, parteciperei a una processione ad petenda pluviam. Sì, effettivamente. Una danza della pioggia, sostanzialmente. Esatto, la danza, lei che è antropologo, da che mondo è mondo, la danza della pioggia, no? Cioè, quando risalgono le prime tradizioni di questo tipo, no? In cui la gente chiede alla natura di comportarsi come vuole che si comporti. Al Paleolitico, cioè sicuramente abbiamo delle tracce nelle pitture rupestri di cose del genere, cioè sicuramente è una delle cose più antiche del mondo, questo rapporto, cioè il rapporto per cui la natura è animata, per cui in qualche modo non è che la natura è un fatto astratto, diciamo, ma indifferente alla vita degli umani, che l'idea è un po' altrettanto mistica, no, dell'esistenzialismo, ma invece l'idea è che comunque la natura sia compartecipe, cioè che ci sia una partecipazione generale, cioè è quello che poi l'ecologia ha scoperto, cioè che un battito di farfalla si sente dall'altra parte del mondo, nel senso che c'è una vera partecipazione, c'è una soggettività plurima nella natura, no? Per cui effettivamente le cose che facciamo hanno un effetto. Lontanissimo, perché c'è un ecosistema, è questo. Allora, Franco La Cieca, noi la ringraziamo, antropologo siciliano, e voglio dire, non so, tu Leonardo Manera sei stato convinto del fatto un po' sei stato convinto del fatto che tenga la cecla in maniera assolutamente convinta. No, secondo me è rimasto un po' lì a metà, non si è capito se ci stava un po' prendendo in giro oppure no. No, però forse alla fine no. Alla fine io credo a quello che dice, anzi sono convinto. Anzi, vado a casa e faccio una danza della pioggia. Va bene, ho capito. La faccio qui subito. Sì, ma ho capito. Così, pelle rossa. Io sono un grande appassionato di pelle rossa. E com'è che è la danza della pioggia? No, adesso non so. Secondo me se vai lì e vendi un po' di elisir del dottor Meazza lo bevono tutti e quello piove. È sicuro. Problemi di siccità vengono risolti senz'altro dall'elisir del dottor Meazza. Mal di testa, nevralgia, cefalee, siccità. L'ho letto. L'hai letto? Cioè, sul bugiardino? Sì. C'è il bugiardino. Sì, sì, certo. E cosa sono le controindicazioni? Ci saranno? Non ci saranno. Come tutti i bugiardini ci saranno delle controindicazioni. Sì, c'è cioè, problemi economici. Cioè, se non puoi pagarlo, non lo puoi avere. Questa è l'unica controindicazione. Usura. Avviamento all'usura. Sta arrivando, vedi, senti che si parla di lui e immediatamente io arriva. Ho parlato di usura, per la verità. Appunto. Ed è arrivato lui. Vabbè, allora, salutiamo lui. È arrivato tardi con il suo elisir, sì. Perché era a piazzare un paio di boccette di elisir del dottor alla Meazza redazione di tutti i convocati. E va bene, così bevi l'elisir del dottor Meazza e risolve tutti Milan. I problemi, dal coronavirus al Milan che vince alla siccità. Sì, lui che è interista è capace di dirti bevilo che vince il Milan. Cioè siamo a questi livelli di follia pur di vendere. Va bene, la borsa. Uno, nessuno, 100 Milan. Va bene, dopo aver sentito l'antropologo, credo che il coronavirus abbia finalmente il suo senso, il suo significato, quello di portarci veramente all'estinzione. Fate i bravi, ecco vedi, abbiamo fatto il danno. Un ascoltatore che dice effettivamente il numero 335-100-6297 l'ho chiamato e non funziona, ma non dovete chiamare. Allora adesso lo spiego bene. Alle 10.45 per tutta la settimana, noi chiudiamo qualche minuto prima, Nicoletta Carbone risponderà alle vostre domande sul coronavirus insieme agli infettivologi. Risponderà. Se mandate domande via SMS, WhatsApp, vocali al 335-100-6297. Non telefonate, ma usate SMS, WhatsApp, vocali. Va bene. Allora, io sono contento perché vengo a trovarci il signor Garosio, il re dei sovranisti e fautore anche... Il re dei sovranisti, sì. Buongiorno. Prima di tutto diciamo le cose come stanno. Non mi interrompa, non l'ho interrotta quando stava parlando. Abbandono lo studio. Catto progressista. Allora, prima di tutto facciamo sentire l'inno del nostro partito. Il Pissi. Pissi anche tu, vuota pissi anche tu, super sovranista italiano, ti difende ogni giorno di più. Allora, perché è orribile, il partito? Posso dire. Ma questo lo dice lei. Sì, no, lo dico io. Abbandono lo studio se persiste nell'interrompermi. Allora, io ho fondato il mio partito, sì, PSSI, Partito Super Sovranista Italiano Pissi. E perché lo chiama Pissi? Perché bisogna dare alla gente delle cose chiare da capire. Ma non ce l'hai. PSSI, come lo legge lei? Il supereroe delle informazioni, il fenomeno di Radio 24. No. Abbiamo qui il fenomeno Milan, un fenomeno che speriamo si estingua rapidamente. Grazie. Più in fretta del coronavirus. Grazie. Allora, perché ho fondato il PSI? Sì, perché Matteo Salvini, la Meloni, troppo moderati i leghisti, ecco. I melonisti sono troppo moderati. Melonisti? Per esempio, Matteo Salvini cosa dice? Dice che l'extracomunitario può anche andare a pronto soccorso, ma la terza volta magari deve pagare. Allora, sbagliato. Perché? Io dico che l'extracomunitario può andare a pronto soccorso solo se prima dimostra di non essere malato. Ma come fa? Sì. Se uno va al pronto altrimenti soccorso? Rischia di contagiare gli italiani con le malattie esotiche. Ma anche tu extracomunitario puoi andare a pronto soccorso solo se non hai nessun problema di salute, altrimenti stai a casa. Mi sembra il minimo. Abbandono lo studio se persiste nell'interrompermi. Sì. Noi come ci finanziamo? Ma ci fa le domande, io non ho capito. Ma questo, vabbè, come vi finanziate? Col ecco. Dizionario super sovranista italiano. Il famoso, è il momento di riportare in auge la lingua italiana. È il momento di portare in auge la lingua italiana. Latino, auge. Auge, è latino. Se lei non conosce auge. Il latino, che è progenitore della nostra in auge, se non conosce il latino, stia a casa, Ma non è latino. Togliamo le parole straniere, per esempio jeans, perché dobbiamo chiamarli jeans. Vai in negozio e dici: buongiorno, vorrei provare un paio di pantaloni nuovi che però sembrano usati, tutti strappati, fatti di tela robusta di Genova. Basta scriverlo in piccolo e ci sta anche sui cartellini del prezzo. Genova? Ci sta sull'etichetta vicino a scritta Made in Bangladesh, che poi il Bangladesh non so nemmeno se esiste, è un'invenzione buonisti per farci impietosire. Per farci impietosire. Allora, parola del dizionario super sovranista italiano. Mi dica una lettera che io lo dico una parola. Per esempio, la lettera A. Allora, T come tergicristallo. No, ho detto A. Tergicristallo. A ho detto. Dispositivo posizionato sul vetro anteriore della macchina che al semaforo va azionato immediatamente per evitare che lo zingarom finga di lavartelo. Io infatti ho inventato un tergicristallo col sensore anti-zingarom che appena capta la presenza questo lo dice lei, io dico zingarom, va bene, no. Anche in lontananza, così il tergi si aziona. Questi qua voglio la monetina, lo zingarom, e non è che ti lavano il vetro perché sono gentili. Quando io vado a fare benzina al benzinaio, il vetro me lo lava gratis. Non capisco perché dovrei pagare te, zingarom, che oltretutto non mi dà neanche la carta fedeltà per prendere i punti, i premi coi punti. Mi dico un'altra lettera. Lettera F. Allora, O come all you can eat. Buonista. Abbandono lo studio. O come all you can eat. Ristorante di cinesi travestiti di giapponesi dove puoi mangiare tutto a pochi soldi. Sì. Tanto quello che ti sembra di risparmiare lo spendi poi il giorno dopo dal gastroenterologo. Perciò è meglio non andarci. Ti sembra risparmiare, ma poi quando passi tutto il mese successivo sulla tazza del water, vedi che forse ti conveniva spendere di più. Ultima parola, dico un'ultima lettera. La lettera Q. G come grigliata. Attività preferita la grigliata ai sudamericani. Ho detto tutto, sudamericani. Ho detto tutto. La cosa domenica. Ma anche a me piacciono le grigliate. E principale causa degli incendi in Australia e in tutto il mondo. Ma cosa c'entra? Perché il sudamericano mette sullo spiedino, poi si dimentica il foto acceso perché beve, inizia a bere e a ballare. Intanto la grigliata sfugge di mano, ma cosa divampano gli incendi che poi dobbiamo spegnere coi Canadair. Ma ormai la frittata è fatta. Perciò il riscaldamento globale nel mondo è colpa dei sudamericani fanno le grigliate. Altro che Greta. La signorina Greta vada a ballare ai sudamericani che fa le grigliate, in un attimo vedi che metto sul barbecue anche lei. Questa è la verità dei problemi. C'è Carlotta che scrive: di per favore, ogni volta che sento l'inno poi lo canticchio per giorni, non mi esce più dalla testa. Brava, anche quindi tu devi aderire non al ce lo faccio più ascoltare partito super sovranista perché, italiano Carlotta, va bene. Finiamo con lì. Pissi anche tu, pissi anche tu, vota pissi anche tu. Super sovranista italiano, ti difende ogni giorno di più. Ah, c'è anche una versione votate un po' pissi, così. Il pissi salverà l'Italia dai buonisti, sovranisti, catto progressisti, catto comunisti. 2.0. Ci vogliamo salvare l'Italia, noi buonisti come Salvini, Garozzo, i melonisti dobbiamo Meloni, chiudiamo. Dia il numero per telefonare sul coronavirus. 335-100-6297. Non telefonare, però, non telefonare, mandare WhatsApp o allora SMS. Sia chiaro, se lei fa un'informazione scorretta a servizio dei poteri forti, va bene, siamo abituati. Poteri forti, Carbone. Buonista, melonista, salviniano, buonista. Io sono pissi, va bene, che non so. Vabbè, le vostre domande via SMS, WhatsApp e vocali al 335-100-6297. Tra poco, dopo il traffico, risponde Nicoletta Carbone. Noi ci sentiamo domani. Buongiorno, signor Garosio, e stia bene. Buonista. Uno, nessuno, 100.000.